scendo in cortile, torno a giocare a piedi nudi, sul marciapiedi, scalcio lattine senza pensieri. Con le mie mani sporche di scuola, frugo tra i dubbi senza risposta, giro le chiavi della mia giostra, guido sconfitto ma non mi importa, tutti i respiri miei li lascio dentro casa, tutti i silenzi poi e qualche piccola scusa. Mi lancio dritto poi in una folle corsa, non per morire ma per superare l'angoscia. Getto le reti dentro quei mari verdi e sinceri, come i miei occhi mi passo in bocca acqua di mare, gusto l'aurora senza sorte, voglio baciarli fino alla morte, tutti i segreti poi li lascio dentro casa, privi di freddo ma ti lascio accesa la stufa, tanto non saprei mai il viso tuo riposa, non te ne accorgerai, e in fondo questo mi basta, io voglio correre lungo quei viali e voglio vivere come i gabbiani, calmi e sicuri, dove li porta il vento. Supereroi, anch'io con la mia fionda, torno invisibile, mi perdo nella memoria, apro le ali mie, e in fondo che mi costa, tutto è possibile, bisogna crederci, basta, io voglio credere.